come non ricordi più. Dai, che anno era? Ho come l'impressione che tu stia ridendo, forse non sei sincera. E fammi una fotografia, tienila per sempre nel telefono, in mezzo alla pornografia e a tutti quei sorrisi che si sprecano al telefono. Si ricorda di me, non so niente di lei. Ho provato ad entrare in quel vecchio locale che prima era un club, dove andavi anche tu. Che peccato però, non ti ho mai visto entrare. La notte si accende, le luci, la gente, le amiche nei bagni col cellulare. Quando qualcuno mi chiede di te, gli rispondo così prima di scappare. Fammi una fotografia e tienila per sempre nel telefono. Ti dico una bugia, è facile lasciarsi in un telefono. Ma quante volte penserai che è vero, che sei rimasta sola in mezzo al cielo. Ma solo sono anch'io come uno scemo al telefono, al telefono, al telefono.